Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. È vero, vengono su tutte dritte dritte una dietro l'altra. Come le perle di una collana di perle. Ma solo nello champagne francese o anche nello spumante? Anche nello spumante, anche il perlage. Ma c'è anche nella birra, io sono esperta. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi incominciamo da qui, dalle bollicine. Perché le bollicine dello spumante salgono in superficie una dietro l'altra come le perle di una collana? È la domanda impossibile della settimana. È stata messa a punto in Trentino un'arnia informatizzata che conta le api in entrata e in uscita e ne registra i parametri biologici. Capiamo a cosa può servire. Con pochi clic e qualche goccia di saliva si può far leggere il proprio DNA e condividere in rete il profilo genetico personale. Ma quali sono le conseguenze? In un libro, l'esperienza di un giornalista che ha provato in prima persona. La grande avventura dell'artiglio, la nave italiana che recuperò 8 tonnellate d'oro e 40 d'argento. Iniziamo col perlage o iniziamo dando i contatti? I contatti, avrete già capito che stiamo per rispondere a una delle vostre domande che riguarda il bollicino, però i contatti. Allora... Sì, perché la novità di questa settimana è che abbiamo aperto la fanpage di Möbius, perché eravamo arrivati a 5.000 amici, quindi non potevamo stringere andare più amicizie, oltre. Quindi abbiamo deciso di aprire la fanpage, quindi scatenatevi con i like, ci trovate sempre su Facebook come Möbius Scienza. Poi cosa abbiamo? Twitter, Möbius_ cioè online. E poi la vecchia mail che è sempre moebius@radio24.it, attraverso la quale appunto ci potete mandare le domande. Come hanno fatto Marco, Giovanni che è un bambino di 8 anni e suo papà Riccardo, perché questa domanda ci è arrivata da più ascoltatori. Ciao ragazzi, io ho una domanda che mi pongo da tutta una vita, ma perché le bollicine dello spumante salgono in superficie un po' come se fossero le perle di una collana? Grazie mille. Per rispondere siamo andati ad Udine, all'Università di Udine, dal ricercatore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Franco Battistutta, che è qui con noi questa sera, benvenuto. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera Battistutta. Lei è il nostro esperto di vino, era già stato nostro ospite per rispondere ad un'altra domanda, questa volta si tratta del perlage. Intanto c'è in tutti, spumante, champagne, birra? Sì, in tutti i prodotti che hanno una sovrappressione di anidride carbonica, perché a questo è dovuto conformarsi questo fenomeno, per cui spumanti, champagne, birra o altri prodotti gasati. E come mai salgono in questo modo così particolare? È anche così bello, devo dire. Molto carino, sì. Ecco, questa è una delle bellezze dello spumante, appunto. Ed è dovuto a una particolarità che non tutti sanno. In realtà, se noi avessimo un bicchiere perfettamente pulito, senza nessuna ruvidità del vetro e senza nessun inquinamento, questo perlage non lo vedremmo. Cioè se noi lavassimo, sterilizzassimo un bicchiere perfettamente di cristallo, con la superficie perfettamente liscia, non avremmo questo fenomeno. Faremo molta fatica a vederlo. Basti dire che se lei versa un bicchiere di spumante, se lei versa lo spumante in un bicchiere, lo consuma e poi riversa un altro po' di spumante. Lo stesso bicchiere, e vedrà che il perlage è molto meno evidente perché lavorava su un bicchiere bagnato. E questo perché? Questo perché le bolle per formarsi hanno bisogno di microbolle già esistenti. Microbolle già esistenti che possono essere presenti nelle asperità del vetro. Infatti nei bicchieri da degustazione vengono fatti a regola d'arte delle piccole abrasioni sul fondo del bicchiere, oppure possono derivare molto più banalmente da impurità dovuta all'acqua di lavaggio o all'asciugatura. Una discontinuità della superficie genera un'instabilità? Sì, perché c'è una presenza di una microbolla di aria da cui può crescere e formarsi la bolla di CO2. Infatti, se lei nota in questo perlage, ci sono alcune di queste catenelle, così vengono chiamate, che partono dal fondo o dalla superficie del bicchiere. Altre invece che sono fluttuanti nel mezzo. Sì, come dei vero. Serpentini. Senta, però non abbiamo capito completamente, nel senso che ci sono delle microbolle che evidentemente non vediamo. Sì, sono esatto. A livello di qualche micro, sono assolutamente invisibili. Ma detto così sembrerebbe che le microbolle premano a destra e a sinistra e si forma una colonna invece di bollone che vediamo. No, è perché quando la bolla, allora la microbolla provoca l'accrescimento dall'anidride carbonica disciolta che c'è. Chiaramente quando questa bolla diventa abbastanza grande, per differenza di densità, si stacca da questo sistema e va verso l'alto. E immediatamente dopo inizia a formarsi un'altra. Ah, quindi si forma questa catena che parte sempre dallo stesso punto, dove c'è questa microbolla iniziale che fa da germe, diciamo così, di formazione per nuove bolle. Da catalizzatore. E quando si conclude? Quando non c'è più... Quando noi abbiamo una bagnatura completa delle superfici. Lei prima ha parlato della birra, ad esempio. Nella birra questo non è un fenomeno voluto. E infatti nei punti mescita di un certo livello il bicchiere viene prima bagnato. Ah, perché nel caso della birra il perlage non è un elemento, diciamo, importante. No, perché nella birra si punta a una formazione di schiuma iniziale e poi alla stabilità del sistema. Ecco. Il perlage non viene visto come nota di qualità. Però in alcune acque minerali super gasate invece si vede un gran casino di bolle. Sì, ma perché lì da un lato le sovrappressioni sono molto alte, dall'altro perché non c'è nessuna sostanza che si oppone a questo rilascio di CO2. In un sistema spumante noi abbiamo tutta una serie di sostanze che sono l'estratto del vino, i prodotti del lievito durante la spumantizzazione, una frazione colloidale, che appunto contribuiscono a cercare di trattenere la CO2. E per questo anche quando si parla di spumanti, in ogni caso, se c'è una formazione di bolle molto grossolane si tende a far diminuire la qualità, perché non ha una quantità sufficiente di queste sostanze. Però bisogna sempre stare attenti al grado di pulizia del bicchiere. E il fatto che vengano su tutte dritte, tutte incolonnate, ok, abbiamo capito come vengono generate, ma poi cercano, diciamo, la via di fuga più veloce. Sì, la più breve, verso l'alto, hanno una densità minore del sistema, per cui si allontanano immediatamente seguono la direzione contraria alla forza di gravità. E diceva che addirittura nelle degustazioni, quindi i professionisti hanno dei bicchieri che generano questo perlage ad hoc. Sì, c'è un effetto che piace. Per standardizzare un momento questo effetto e per non dipendere da come si sono lavati i bicchieri e soprattutto da come si sono asciugati, perché come dicevo un panno di cotone può aiutare molto alla formazione di questo perlage, perché lascia dei frammenti, sì, non i pellucchi visibili, ma lascia dei frammenti di cellulosa che si prestano bene a questo effetto. Sul fondo del bicchiere proprio, in corrispondenza dello stelo, si può essere una sorta di zigrinatura o di incisione che garantisce appunto la formazione di qualche microbolla nel momento in cui versiamo, per cui una formazione costante e standardizzata di bolle. Grazie Battistuta, interessante, simpatica questa. Abbiamo cosa. Risolto anche questa. Va bene. Grazie, buona ci serata. Sentiremo un'altra volta. Buona presto. Serata. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qui andiamo a finire che pure le api avranno lo smartphone. Sì, esatto. Sono ragazze intelligenti, attenzione. Saranno informatizzate, saranno sempre in rete. Manderanno una sfracello di SMS. E avranno il GPS. Esatto. E sapremo sempre dove sono e cosa tutte mangiano. Tutte le api. Vabbè. Adesso, a parte gli scherzi, ma in realtà le casette delle api, quelle artificiali, quindi le arnie, potrebbero avere dei sensori e dei rilevatori di entrata e uscita api, diciamo così, come si chiama, contapi, credo che si possa chiamare, perché a che cosa potrebbe servire? Beh, insomma, questo lo chiediamo al nostro ospite, che è un ricercatore della Fondazione Edmund Mac di San Michele all'Adige in Trentino, ed è qui con noi questa sera Paolo Fontana. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Fontana. Abbiamo un po' scherzato io e Federico, però veramente voi avete messo a punto, è ancora un prototipo, non è ancora in commercio, anzi pensate di prototiparlo e di metterlo in commercio tra un po'. Si parla di un'arnia informatizzata. Intanto, che tipo di informazioni ci può dare quest'arnia? Un'arnia informatizzata può dare le informazioni che servono sia ai ricercatori per indagare vari aspetti della vita delle api, sia agli apicoltori, e cioè appunto le uscite e le entrate delle api bottinatrici, cioè quelle che vanno a raccogliere il miele, il polline, eccetera, e anche l'accrescimento delle colonie di api, quindi il peso della colonia, quindi come le scorte importate dalle api aumentano, e interfacciando, diciamo, questi dati con i dati climatici che possono essere raccolti in tempo reale, noi abbiamo anche una valutazione di un determinato ceppo di api di un determinato tipo alle condizioni climatiche di un ambiente, quindi possono servire sia per valutare la produttività delle api che il loro adattamento all'ambiente. Perché con il peso voi capite qualcosa sulla produzione di miele? Certamente, mettendo dei sensori di peso, cioè delle bilance elettroniche, diciamo, al di sotto degli alveari, noi riusciamo a capire se quanto le api riescono a raccogliere dall'ambiente è sufficiente soltanto alla loro sopravvivenza e quindi questo peso rimane costante, oppure se questo peso aumenta e aumenta rapidamente nel tempo, sappiamo che le api riescono a raccogliere un surplus ed è quello poi che interessa all'apicoltore, ma è anche quello che ci dà il livello di forza delle colonie, la loro energia, la loro vitalità. Perché l'importanza è un po' duplice: sapere un po' della biologia, dell'etologia dell'animale, dell'insetto, quindi serve all'apicoltore e anche ai ricercatori, però anche ci dà indicazioni sull'ambiente, perché in questo periodo, anche a Mebius ne abbiamo spesso parlato, si parla della moria delle api per diverse cause, quelle ambientali, quelle dovute a fitofarmaci. Questo strumento potrebbe aiutarci anche, diciamo, per superare questo problema, per monitorarlo? Certo, l'idea di realizzare un conto api elettronico di nuova generazione, cioè noi c'erano già dei conto api elettronici che però funzionavano con una lettura ottica. Ora le api hanno l'abitudine di imbrattare, diciamo, la loro entrata, l'entrata della loro casa, del loro alveare, con la propoli, con la cera. Quindi non funzionava. E quindi danno un problema di accecamento di questo sensore. Lo scopo principale della fondazione per avere un conto api efficiente è proprio di valutare gli effetti, per esempio, di alcuni insetticidi che invece di causare una moria di api molto evidente, fanno confondere le api, le fanno disperdere perché si perdono l'orientamento e quindi non ritornano all'alveare. Ecco qua. Allora, per avere un conteggio reale della differenza tra le api che sono uscite e quelle che sono entrate, uno strumento di questo tipo è fondamentale. Ecco, ma, diciamo. Senta, siccome l'ottico non funziona, ma immagino che non abbiate introdotto un biglietto, un ticket, com'è che funziona questo qua? Allora, ci sono anche dei tentativi e dei prototipi per col cui biglietto, per esempio, viene incollato su un certo numero di api dei piccoli chip, come quei filetti che vengono messi dentro i libri, nelle librerie. Sì, sulla singola ape? Sulla singola ape, però questo, diciamo, poteva essere dare un dato su un certo numero di statistico. Api. Statistico. Esatto. Mentre questo nuovo conto api si basa sempre su una lettura elettronica, ma permette proprio di valutare in base all'effetto fisico che dà un'ape viva, che quindi è anche contiene dei liquidi, eccetera, al passaggio sotto questo sensore, e mettendo una serie di sensori noi possiamo sapere se questo passaggio avviene in una direzione o in un'altra. Ma scusi, l'arnia come è fatta? Ha tanti buchini e c'è in ogni buchino un sensore? Esattamente, cioè noi il primo problema che abbiamo dovuto superare era quello di verificare se, fornendo un'apertura dell'alveare composta da tanti piccoli tubicini, questo poteva avere un'influenza negativa. Che non gli piacesse. Sull'alveare, certo. No? Perché se io voglio avere un conto api abbinato ad una bilancia elettronica per cui mi dica quante api vanno e vengono, ma anche quanto miele raccolgono, realmente è importante che questa apertura non ostacoli le api. Mm. Invece abbiamo proprio verificato che non è assolutamente di ostacolo e che oltretutto la lettura nel tempo non viene inficiata, cioè non viene alterata dalla fruizione delle api di questi tubicini. Mm. Quindi diciamo lo strumento, che poi la cosa curiosa è che noi ci siamo rivolti a una società che si occupa di domotica. Certo, è ovvio. Proprio perché la domotica si occupa del controllo delle varie funzioni di un'abitazione, è come se noi fornissimo una casa domotizzata alle api, alle nostre api. Però tutto un po' più minuscolo, insomma. Certamente. Senta Fontana, io ho passato qualche tempo ogni tanto, insomma, a osservare invece le formiche, no? Quando hanno il buchino e il nido. E lì quello che si nota, stando un po', è che fanno, come saprà molto meglio di me, no? Che c'è questa interpretazione del comportamento delle formiche come un animale complessivo, no? Fatto, sì, appunto, un superorganismo, esatto, come scrisse Wilson tanto tempo fa. Però lì, quando lei vede come funziona, beh, insomma, si capisce chiaramente che ci sono delle formiche che vanno destra, sinistra, entrano nel buco, riescono, rientrano, ma tutto in pochi secondi, cioè c'è un comportamento disordinatissimo. Ma a noi sembra disordinato, forse. A noi, ecco, in ma realtà... però con i vostri, le api sono più ordinate oppure anche loro vanno, vengono, entrano? Quindi voi come fate a misurare il numero di api? Bisogna capire anche una cosa. Intanto le api appunto sono insetti sociali, imparentati in qualche modo con le formiche, e hanno questa suddivisione in caste, per cui ci sono le api operaie, i fuchi, l'ape regina, ma hanno un'altra caratteristica, cioè quando l'ape nasce, si sviluppa da uovo a larva dentro l'alveare in 21 giorni, l'ape operaia, prima di uscire nell'ambiente esterno passa una ventina di giorni all'interno dell'alveare e solo dopo i 20-21 giorni comincia a fare il suo lavoro di raccoglitrice. In questa fase, diciamo, negli ultimi giorni in cui passa dal lavoro d'ufficio, diciamo così, al lavoro dei campi, può fare qualche minima uscita, diciamo, attraverso la porticina. Quindi in effetti ci sono delle api che indugiano un po' tra l'interno e l'esterno. L'importante è riuscire a trovare una correlazione, diciamo, matematica che spieghi anche questo fenomeno. Okay. Dopodiché, essendo che il dato viene letto ogni minuto o viene registrato ogni minuto, noi ci rendiamo subito conto dei flussi, diciamo, di volo, e quindi è logico che dalla mattina alla sera avremo una disparità di numeri. Però interpretando e studiando questi flussi nel corso delle settimane e dei mesi, noi siamo in grado di stabilire qual è un flusso normale e qual è invece un flusso alterato. Una specie di grande fratello delle api, che si capisce cosa fanno dentro la casetta. Ma comunque avete degli algoritmi che riescono a correggere, no? Come si fa anche alle lezioni, no? Si riesce a correggere e capire che il dato va spostato un po' più su, un po' più giù. Esattamente, esattamente. Quindi pensate che un alveare va dai 30.000 ai 50-60.000 individui, e nel corso della stagione, diciamo, si alternano circa 200.000 api bottinatrici. Quindi i numeri sono molto elevati, e lavorando su numeri elevati, naturalmente il margine statistico che deve essere considerato è molto elevato. Però si riesce a dare una chiara lettura se tutto procede bene, cioè se le api nell'ambiente hanno trovato una minaccia, un problema che ne ha pregiudicato il ritorno, oppure se è andato tutto liscio. Bene. Lei ha detto che si alternano perché muoiono e ne arrivano. Ma quanto vive un'ape? Allora, un'ape che nasce adesso, in primavera avanzata, con la fioritura della robinia, piuttosto che più avanti con la fioritura del castagno, ha una vita attiva, diciamo, al di fuori dell'alveare, che va tra i 10 e i 20 giorni. Quindi pochino. Se noi consideriamo i 40 giorni che vive all'interno dell'alveare, un'ape, diciamo, da uovo alla sua inesorabile morte, può vivere, diciamo, 45 giorni, un paio di mesi. Massimo. Mentre un'ape che è destinata a trascorrere l'inverno all'interno dell'alveare, perché le colonie di api sono colonie permanenti che si conservano anche, che sopravvivono durante l'inverno, può vivere anche 6 mesi o anche 7 mesi, proprio perché non ha avuto questo logorio dell'attività di bottinatura, cioè di raccolta. Va bene, grazie mille Fontana, in bocca al lupo per il vostro progetto, sembra molto interessante e soprattutto utile. Sì, lo scopo è proprio quello di creare uno strumento che possa essere efficiente, ma anche che possa essere alla portata non solo dei ricercatori e degli istituti di ricerca, ma anche degli apicoltori. Noi stiamo cercando di creare uno strumento, non dico low cost, ma almeno abbordabile, diciamo, da parte di chiunque. Grazie. Buon lavoro. Grazie Fontana. A voi. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Lo avete già sentito dai titoli, parliamo di un'avventura che ha coinvolto una nave italiana molto tempo fa e lo faccio con l'ingegner Guido Gai. Buonasera Guido Gai. Buonasera. Ci siamo già sentiti noi qui a Mebius perché lei è colui che con un suo team e con delle attrezzature subacquee, una nave attrezzata per questo, ha ritrovato la corazzata Roma. Ci siamo sentiti credo l'estate scorso, un ritrovamento. La corazzata era lì tra Sardegna e Corsica, da quelle parti se non ricordo male. Infatti la corazzata Roma si trova nel Golfo della Sinara, nel Canyon di Castelsardo, a 1200 metri di profondità, ed è stata trovata con la mia barca da passeggio, però non è una nave, è un catamarano deboli. Una barca da passeggio, va bene, però attrezzata con vari strumenti per ricerca subacquea molto sofisticati. So anche che questo tipo di strumentazione è anche quella che produce una sua azienda, no? Sì. E da una sua grande passione nell'andare a trovare cose in fondo al mare, la corazzata Roma era qualcosa che si cercava da tanto tempo, fu affondata nella fase, era il 1943, no? Mi pare, quando venne affondata. Il 9 settembre 1943, il giorno dopo l'armistizio, la corazzata, tutta la flotta italiana si stava dirigendo dai porti di La Spezia e di Genova, si stava dirigendo verso sud, inizialmente verso la Maddalena, quando fu intercettata da bombardieri tedeschi che, utilizzando delle bombe teleguidate, i primi missili, l'antesignano dei missili di allora, riuscirono a centrare la nave, nostra nave ammiraglia, e ad affondarla. E dobbiamo ricordare che questo ritrovamento è anche legato al fatto che fu una grande tragedia perché ci fu una immensa perdita di vite umane. Bene, però noi ritorniamo da lei perché lei ha vinto il premio Artiglio. Sembrerebbe che un artiglio non abbia a che vedere con il mare, invece ha molto a che vedere. Questo premio viene dato a coloro che fanno delle imprese, insomma, analoghe a quelle che lei ha fatto. Viene dato ogni 2 anni e l'artiglio è il nome di due navi italiane che intorno agli anni 30 furono protagoniste di un'impresa, come dire, analoga alla sua, nel senso che grandi strutture cercavano una nave, adesso ci dirà quale, e non la trovarono, e invece questa piccola nave italiana, però con molto coraggio, molta inventività, riuscì a risolvere il problema. Allora, torniamo indietro a quando? Sì, allora, prima di tutto vorrei precisare che la Fondazione Artiglio Europa, che ha istituito il premio, è stata creata dal figlio di uno dei palombari che lavorarono su questa nave Artiglio, di cui racconterò fra un attimo. Francesco Sodini è colui che ha creato tutta l'organizzazione e ha pensato a questo evento. Allora, torniamo alla nave Artiglio. Siamo nel... La nave Artiglio ha iniziato intorno al 1922-23, se non ricordo male. Allora esistevano i palombari che potevano scendere a discrete profondità, però tutto ciò che era al di sotto, diciamo più profondo di 40-50 metri, era praticamente irraggiungibile. Invece la fondazione, la nave Artiglio e la società che gestiva questa nave, la Sodima, riuscirono a creare delle apparecchiature di loro concezione che consentivano a un uomo di essere calato dentro una torretta di osservazione con oblò e luci per vedere che cosa succedeva sul fondo. Sul fondale, quindi a profondità anche più elevate. Ma noi dobbiamo collegare questa strumentazione, questa nave, a un evento specifico che avvenne nella Manica. Infatti, dopo che la Sodima, la società, con la nave Artiglio fecero esperienze e quindi crearono queste apparecchiature, si proposero per recuperare il carico di una nave affondata nella Manica, una nave inglese, si chiamava l'Egypt, che partendo dal Tamigi si dirigeva in India e aveva a bordo questa nave un carico preziosissimo, aveva molte tonnellate in lingotti d'oro e in monete e più di 40 tonnellate di argento. La nave, appena dopo la partenza nella Manica, in un banco di nebbia fu speronata da un'altra nave e affondò nel giro di una ventina di minuti. Questo accadde nel 1922, sì. E quindi fu una perdita totale. E cercarono di recuperare, però le assicurazioni pagarono il danno e divennero proprietarie del relitto. Allora si attivarono per vedere se si poteva recuperare e interpellarono ovviamente gli inglesi in primo luogo, poi intervennero francesi e tedeschi. Ecco, dopo lunghe vicissitudini che durarono alcuni anni, non riuscirono neanche a trovarla la nave, quindi in pratica il relitto continuò a giacere lì. Allora la Sodima, dopo aver fatto esperienze in zone simili, cioè in zone in Atlantico, in zone con forti correnti e maree, e avendo ottenuto dei risultati positivi, fu praticamente vinse una specie di gara e fu incaricata di trovare il relitto e di recuperarlo. E questo iniziò la storia famosa dell'Artiglio. Loro riuscirono a individuarlo e questo fu già un primo risultato, però poi era a che profondità? Si trovava a 130 metri il relitto. Quindi nessun palombaro poteva raggiungerli. No, nessun palombaro poteva arrivare a quella profondità. Quindi il lavoro fu fatto con questa torretta, al cui interno naturalmente c'era pressione atmosferica, alimentata con aria dalla superficie e collegata con un cavo telefonico alla superficie. Dentro la torretta si chiudeva una persona, un palombaro, che in questo caso non è che facesse un'immersione, però veniva chiuso il palombaro e calato verticalmente dalla nave. Il palombaro poteva osservare ciò che c'era nel fondo e comunicare alla nave le operazioni come e in che maniera dovevano essere fatte. Ecco, mi scusi, è una specie di campana, insomma, una cosa di questo genere che andava giù. Lei la chiama torretta perché in gergale sarà questo, ma dobbiamo immaginare una specie di involucro, no? Con degli oblò e aveva anche dei fari. Per campana si intende un qualche cosa che è aperto sul fondo. Esatto, questo era chiuso. Un involucro chiuso, era una specie di bombola, un cilindro verticale dentro il quale si calava l'uomo e veniva chiuso con un coperchio stagno. E poi tutto intorno aveva una serie di oblò per cui l'osservatore poteva vedere tutto intorno, sopra e sotto. Certo, poi con dei fari vedeva. Con questo strumento arrivarono nelle vicinanze della nave, cioè esattamente dove era la nave, ma poi il carico era nella stiva. Come hanno fatto a tirarlo fuori? Sì, ecco, questo questa operazione difficilissima. Già la ricerca durò 2 anni. Poi, dopo la ricerca, la nave Artiglio 1, numero 1, perché furono 2 le navi Artiglio, andò a fare un altro lavoro che sembrava facile, che invece fu tragico: recuperare il carico di una nave in relativamente bassa profondità. Questa nave aveva 150 tonnellate di esplosivo a bordo e per una manovra incauta esplose tutto quanto e fece affondare l'Artiglio 1 e si ebbe una perdita anche in vite umane non indifferente. Ah, e quindi arriva l'Artiglio 2, ho capito. Quindi questa tragedia segnò l'epopea dell'Artiglio. Comunque la società Sodima non indietreggiò e armò immediatamente una seconda nave, Artiglio 2, con la quale si tornarono sul relitto dell'Egitto. L'Egitto era un transatlantico lungo 150 metri e alto 4 ponti. Quindi per accedere alla Camera del Tesoro, che era quasi sul fondo della stiva, l'Artiglio dovette demolire tutti i 4 ponti sovrastanti. Questo lavoro fu eseguito con cariche esplosive, praticamente dei tubi orizzontali che venivano posati sul ponte e poi venivano fatti esplodere. Naturalmente immaginate questo lavoro con la torretta che vede il tubo degli esplosivi a 130 metri più sotto la nave, comunica con la nave e dice: spostatevi un po' di qui, spostatevi un po' di là, calate, eccetera, per posizionare esattamente l'esplosivo nel punto esplosivo. Dove poteva essere veramente da certosini, che richiedeva un'abilità mostruosa. E ci furono diverse esplosioni, no? Cioè in più fasi. Infatti ci impiegarono, credo, più di un anno per demolire i ponti e arrivare alla Camera del Tesoro. E riuscirono a recuperarlo poi? Perché con la torretta poi si dava indicazione a una specie di gru che poteva prelevarlo. Sì, avevano costruito una benna e intorno alla benna c'era un altro involucro, perché la benna può acchiappare un mucchio di lingotti, però c'era il rischio che tirandoli su ne sfuggissero alcuni e cadessero poi in modo irrecuperabile. Quindi intorno alla benna c'era un involucro che proteggeva dalla caduta. Questa benna veniva fatta entrare dentro la Camera del Tesoro, che era una cosa strettissima, una cosa larga 1,5 metri, profonda 2 metri, quindi un lavoro di estrema precisione. E qui in questo modo riuscirono a recuperare 7 tonnellate d'oro e più di 40 tonnellate di argento. Da notarsi che il carico dichiarato era solo di 5 tonnellate d'oro, quindi quando la compagnia di assicurazione si vide arrivare 7 tonnellate, ovviamente erano particolarmente contenti. Va bene, questa è una storia veramente singolare, meriterebbe un film. Tra l'altro questa nave va a fare, la seconda Artiglio, un'operazione che è assolutamente identica a quella da cui proveniva l'altra unità, che purtroppo era esplosa, quindi si aveva sempre a che fare con esplosioni in profondità e allora insomma il rischio era veramente elevato. Però insomma fu un grande successo della marineria italiana. Allora, l'esplosione che distrusse il primo Artiglio fu causata da un altro relitto. Sì. Il relitto dell'Egitto non conteneva esplosivi, sì, quindi certo, non certo. Aveva rischi di questo genere. Gli esplosivi erano solo posati dall'Artiglio per demolire 4 ponti che erano sopra la Camera del Tesoro. È chiaro che il successo di questa operazione dette un lustro estremo alla marineria italiana dell'epoca, in contrapposizione a tedeschi, francesi e inglesi, che erano il massimo della tecnologia, della potenza marinara. Ecco, quindi l'Italia, piccola, con pochi mezzi e sistemi artigianali, quasi riuscì ad ottenere dei risultati che agli altri sfuggiva. Che è un classico di molte storie italiane. Allora, ingegner Guido Gai, grazie, complimenti per il premio prestigioso Artiglio. Ricordo che la prima volta fu dato, la prima edizione del premio fu dato a un grande come Cousteau, insomma, quindi siete pochi e importantissimi quelli premiati, e buone immersioni, e se trova qualcos'altro ci chiami. Grazie a voi, e volevo solo segnalare ancora il link, diciamo così, della Fondazione Artiglio, che trovate su internet. Chi volesse saperne di più può anche andare a vedere il mio sito che si chiama azionemare.org. Grazie Guy, buon lavoro. Buonasera a voi, grazie per la trasmissione. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso non vi sembri strano come inizia Alberto Agliotti, perché lui vi descrive con il suo ospite esattamente l'inizio di tutto, cioè come si preleva la saliva, ok? E poi dopo lo vi racconta tutto il resto. Sergio, allora come si sputa in questo provettone, poi si scuote il provettone, poi che succede? Poi si spedisce, si manda in un laboratorio che sta da qualche parte nel mondo, generalmente negli Stati Uniti, e dopo un po' di tempo, generalmente una quindicina di giorni, arriva un'email che dice: caro Sergio, caro Tizio, caro Caio, il tuo profilo genetico è pronto. E lì inizia l'esplorazione del nostro DNA. Allora, Sergio Pistoi è biologo e giornalista scientifico divulgatore, autore di Il DNA incontra Facebook. Il libro in realtà è del 2012, ma adesso è diventato una conferenza spettacolo con Patrizio Roversi, noto volto televisivo, e Andrea Vico, a sua volta giornalista e divulgatore. E il libro ha anche vinto un premio per la divulgazione scientifica, ma ne parliamo più avanti. Sergio Pistoi, cosa hai combinato? Tu hai cercato qualcuno che facesse l'analisi del tuo DNA e ti sei sottoposto. Sì, ho fatto quello che in realtà oggi possono fare tutti, perché quello che racconto nel libro è davvero una rivoluzione non solo scientifica ma anche e soprattutto culturale. Cioè, quello che noi possiamo fare oggi con una cifra ragionevole, parliamo di meno di $100, quindi meno di €100, mandare il nostro sputo, il nostro campione di saliva via internet e ottenere il nostro profilo di DNA e partire alla scoperta del nostro genoma, ottenere quella che io chiamo una pagella genetica con una serie di risultati che riguardano diversi aspetti di cose che stanno scritte nei nostri cromosomi. Per esempio quali? Vengono subito in mente le malattie alle quali uno può essere predisposto. Ma... le malattie sono la prima cosa, ovviamente, da biologo a cui io ho pensato e a cui pensano tutti. In realtà scopriamo, quando cominciamo a esplorare il nostro DNA, che questo è un aspetto ancora molto preliminare, quindi non riusciamo, tranne rari casi di persone che hanno delle mutazioni rare e che quindi scoprono di essere fortemente predisposte ad alcune malattie, in realtà la maggior parte di noi ha un DNA abbastanza mediocre e quindi, diciamo, non è quella la parte più interessante oggi dal punto di vista delle applicazioni. Scopriamo tantissime altre cose interessanti, ad esempio scopriamo che possiamo essere più o meno predisposti a reagire bene o male a determinati farmaci, questa è un'applicazione molto concreta che troviamo nelle pagelle genetiche, ma soprattutto scopriamo che con il nostro DNA possiamo fare quello che facciamo con qualsiasi contenuto digitale, e cioè condividerlo in rete con gli altri. E qua infatti arriva l'incontro con Facebook, diciamo, insomma, con i social network. Tu ti sei fatto un sacco di amici genetici, ci spieghi? Ecco, la funzione social, cioè il social network, funziona in modo quasi automatico, nel senso che nel momento in cui il mio DNA viene analizzato, viene trasformato in un file e sta in un computer e viene confrontato con il DNA di tutti gli altri clienti dello stesso servizio. E quindi cosa succede? Che io a un certo punto ricevo, come su Facebook, una lista di persone che hanno qualcosa in comune con me, soltanto che la comunanza non si fa come su Facebook in base ai nostri gusti, ai nostri amici, eccetera, ma in base al nostro DNA. Quindi io quello che ricevo è una serie di amici, tra virgolette, genetici, che sono parenti, per modo di dire, perché possono essere parenti anche molto lontani, quelli che io chiamo gli pseudoparenti. È un vero e proprio social network basato sul DNA. Forse c'è qualche legame più sincero rispetto a quelli che invece magari ci sono normalmente nei social network? Ma guarda, dipende. È chiaro che se io avessi un fratello di cui non conosco l'esistenza e questa persona fosse nello stesso database di me, il sistema mi direbbe immediatamente che io, per esempio, ho un fratello. Quindi può darmi anche indicazioni su legami di sangue anche molto vicini. Poi io nel libro faccio delle riflessioni, mi chiedo chi sono davvero queste persone che io incontro virtualmente virtualmente su Facebook, sono miei parenti, non mi inviteranno mai alla comunione, al battesimo del figlio o a Natale, però comunque sono persone con cui io ho bene o male un legame di un certo tipo, un legame di sangue. E comunque, come in tutte le funzioni social, l'importante non è tanto il legame che tu instauri con le persone, ma il fatto che tu poi possa avere un contenuto, un argomento da condividere con gli altri. Se uno ci pensa, il DNA è un contenuto fantastico dal punto di vista della condivisione, molto meglio dei segni zodiacali o del tempo, che sono i contenuti social per eccellenza che vengono discussi magari in ascensore. Sul DNA possiamo dire un sacco di cose serie, facete, e comunque è un argomento su cui, appunto, noi abbiamo fatto uno spettacolo quando abbiamo pensato di parlare per un'ora e mezzo del nostro DNA o del mio DNA. Pensavamo che la gente si annoiasse, invece è un argomento che appassiona e che fa divertire. Per esempio, con il DNA possiamo scoprire che di cugini, diciamo, oltre il terzo e quarto grado ne abbiamo tantissimi, insomma, che alla fine siamo davvero tutti parenti in qualche modo. È un po' un insegnamento anche questo. Sì, l'insegnamento più bello, secondo me, che arriva dalla genetica è che siamo tutti un miscuglio di geni. Nello spettacolo faccio vedere i miei cromosomi, che vengono colorati in base alla mia provenienza etnica, e si scopre che in fondo sono un po' un crogiolo di razze come tutti. Quindi è veramente la prova provata che non esistono razze umane, esiste solo una specie, che è quella dell'Homo sapiens. No, questa non me l'aspettavo. Di essere parente con la banana non me l'aspettavo. Cioè, io per quasi metà di quasi me sono una banana. No, ma è come una banana. Perché il 45% della nostra storia naturale è stata la stessa, no? Su lungo periodo, poi ci siamo separati. Scoprirmi banano per caso mi crea qualche disagio. Patrizio Roversi, Sergio Pistoi ha fatto analizzare il suo DNA. Tu lo farai o hai paura magari di scoprire che davvero assomigli così tanto, come tutti noi, a una banana? Guarda, il problema della banana è il meno, mi va benissimo essere simile a una banana e anche a un lombrico. Il problema vero è che tutte queste informazioni ritengo che bisognerà essere in grado poi di decodificarle. Parlo per me, parlo anche per il mio medico di base, eccetera. Per ora credo che siano talmente... a volte approssimative, che forse non vale la pena, insomma, di basarsi su quello. Non vorrei che diventasse una ulteriore mania collettiva. Certo che invece sul piano della ricerca sono cose fondamentali, e in questo caso Sergio ha fatto questa ricerca su se stesso, cioè ha sperimentato su se stesso questo tipo di ricerca, proprio non per motivi scientifici ma per motivi di carattere culturale, sociale, cioè il fatto che stiano diventati elementi che sono entrati nel costume corrente delle persone. Dobbiamo prepararci a questo, essere disposti ad accettare queste novità con spirito critico. Turisti per caso, velisti per caso, evoluti per caso, insomma, la battuta facile sarebbe genetisti per caso, ma chi ti segue sa che da un po' che ti occupi di scienza, non è un caso. Allora, il mio babbo non ha mai capito che mestiere io faccia, io stesso faccio fatica a capirlo, però un'ipotesi ce l'ho ed è quella che in qualche modo io cerco di mettere in comunicazione un pubblico con delle cose interessanti, il pubblico con dei mondi, siano essi personaggi dello spettacolo o in questo caso scienziati che hanno qualcosa da dire. A parte che ho un po' questo complesso, no? Cioè ho fatto un liceo classico, per cui a livello di cultura scientifica zero totale, e invece io credo che adesso evidentemente per comprendere la realtà alcuni elementi di cultura scientifica di base servano. Sono convinto che l'opinione pubblica, per esempio, per prendere posizione riguardo a temi di carattere etico, di carattere politico, economico, deve conoscere qualcosa. Quindi trovo che la divulgazione scientifica sia molto, molto interessante e fondamentale a livello anche sociale e politico. Poi la ricerca è in un pessimo momento, deve cercare la collaborazione e la solidarietà dell'opinione pubblica e quindi giustamente deve aprirsi e raccontare quello che fa. Le persone che sono sedute in luce oggi saranno pescate da questo, prego, una la tenga con le dita, non è nulla di grave, uso il guanto solo per non sporcarla, una anche per lei. Andrea Vico, giornalista scientifico, divulgatore, sul palco con Sergio Pistoi e Patrizio Roversi. Cosa avete dato da mangiare a questi poveri malcapitati? Era una cartina che ha un piccolo reagente, per cui sulla lingua, sulla saliva si scatenano le reazioni fisiologiche, per cui si sente molto l'amaro o non si sente per niente. Io sono quel 25% di DNA che non sente assolutamente l'amaro e quella cartina non mi fa un baffo. Uno spettacolo davvero interattivo. Sì, noi abbiamo cercato, come sempre facciamo quando facciamo divulgazione scientifica, di togliere le barriere che ci sono naturalmente tra il contenuto e il pubblico, la sala. Quindi cerchiamo di creare quelle situazioni in cui accanto alle parole o ai filmati facciamo partecipare le persone. Prossime tappe? Prossime tappe saremo sicuramente il 14 giugno a Rimini, all'interno di un'altra manifestazione che parla di libri e si intitola Un mare di libri, dedicata agli adolescenti, e altrettanto sicuramente il 4 di ottobre a Milano, al Museo Nazionale di Scienze Tecniche Leonardo da Vinci, all'interno di una settimana dedicata alle biotecnologie promossa da AssoBiotech. E poi abbiamo 3 o 4 altre date in ballo, ma per scaramanzia non le diciamo. Sergio Pistoi, dicevamo, il libro è uscito nel 2012, ma da poco ha vinto il premio Galileo per la divulgazione scientifica e immagino sia stata un'emozione, perché comunque te la sei vista con dei concorrenti mica da poco, perché il premio, correggimi se sbaglio, funziona così: c'è una giuria di scienziati, insomma di esperti, diciamo, che sceglie una cinquina di titoli. Però poi il pubblico che determina, quindi la giuria fatta dal pubblico che determina il vincitore effettivo è fatta dagli studenti delle scuole e hanno scelto te. 2500 ragazzi nelle scuole di tutta Italia, quindi una giuria severissima e assolutamente non influenzabile. È una formula bellissima, io sono stato davvero contento di avere questo premio, oltre al fatto che nella cinquina dei finalisti c'erano 2 bestseller internazionali che mi hanno dato decisamente del filo da torcere, che erano, ricordiamolo, Frank Law con Neutrino, ne avevamo parlato anche a Möbius, e Sam Keen con Il cucchiaino scomparso. Questi erano i 2 titoli internazionali, poi c'erano altri bellissimi titoli italiani. Io, come ho detto ai ragazzi, i veri vincitori sono stati loro, nel senso che hanno avuto davvero un'opportunità che io per esempio non ho avuto quando ero studente, cioè quella di leggere, confrontarsi con dei libri che parlano di scienza, che parlano di divulgazione scientifica, e di poterli discutere fra di loro in classe, addirittura essere giudici e votare. E credo che poi alla fine non sia davvero un caso il fatto che sia stata proprio una giuria di ragazzi, di giovanissimi, a apprezzare l'argomento del libro, perché in fondo è una storia che riguarda il presente ma anche e soprattutto il futuro. Parla di social network, è una cosa a cui loro sono molto sensibili, e quindi era forse davvero il pubblico più recettivo per questo tipo di storia. Sergio Pistoi, il DNA incontra Facebook, Marsiglio editore, si trova in libreria, si trova su internet. Grazie Sergio Pistoi. Grazie a voi. Cosa vi devo dire? Quello che avevamo da raccontarvi ve l'abbiamo detto. Allora ci sentiamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.